9 in punto. La politica nel tunnel. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Buongiorno cari ascoltatrici e cari ascoltatori da Simone Spezia. Come sempre in queste settimane, lo avete sentito, apriamo con questa telefonata che ci è arrivata l'altro giorno dal nostro ascoltatore Angelo, che testimonia ancora una volta qual è la situazione del paese. Oggi l'apertura del Sole 24 Ore è l'allarme delle piccole e medie imprese: siamo senza credito e liquidità. Dati di questa mattina, dati diffusi dall'ANSA, del CERVED, l'anno scorso 47.000 le aziende non individuali che hanno accusato almeno un protesto. C'è un boom di imprese in grave ritardo ai pagamenti verso i fornitori, un 7% del totale contro il 5,7% appena nel secondo trimestre del 2012. In questo quadro, lo stallo politico che stiamo vivendo, e con quello apriamo una trasmissione che dedicheremo oggi a un tema, al tema delle diseguaglianze, di dove nascono queste diseguaglianze, perché insomma è una questione che abbiamo affrontato, a proposito degli stipendi di amministratori delegati e dirigenti aziendali nei giorni scorsi, e adesso ce ne occupiamo per capire dove nascono queste diseguaglianze. C'è un dato diffuso ieri dall'Istat con il CNEL nel rapporto BES 2013 che mi ha colpito particolarmente, ed è che cosa succede ai nostri figli, in dipendenza dalla nostra classe di reddito, dalla nostra formazione e soprattutto dal nostro lavoro, dal lavoro che svolgiamo. Ebbene, il 60% dei giovani che non lavorano e non studiano sono figli di personale non qualificato o disoccupati, una percentuale che progressivamente scende col salire del livello occupazionale dei genitori. E il 55% delle persone che escono precocemente dal sistema di istruzione e formazione sono figli appunto di personale non qualificato e non occupati. È dunque un ascensore sociale bloccato, che però si blocca già in partenza, si blocca già nella scuola. C'è chi dice che addirittura questo blocco inizi alle materne. Questo chiaramente è uno dei grandi problemi del paese. Il tema della meritocrazia l'abbiamo affrontato molte volte, ma è un tema che va affrontato fornendo, come si diceva, condizioni di partenza di base che siano uguali per tutti o il più possibile simili, che facciano emergere veramente chi ha le capacità. Detto ciò, però, iniziamo la puntata come sempre in questi giorni parlando di politica e facendo un punto sulla situazione politica, che non può non tener conto di quello che è successo ieri davanti al Palazzo di Giustizia di Milano, con la manifestazione dei deputati, degli eletti del Popolo della Libertà, e dall'altra parte con le trattative ancora in corso tra il Partito Democratico e il Movimento 5 Stelle, ammesso che trattative ci siano davvero. Dunque, saluto le nostre prime due ospiti, che sono delle persone che stanno in politica e che però si occupano di scuola, e con loro affronteremo anche l'argomento che abbiamo scelto per la giornata di oggi di questa trasmissione, alle quali però rivolgeremo anche delle domande sulla situazione politica. Maria Stella Gelmini del PDL, buongiorno. Buongiorno a lei e agli ascoltatori. E buongiorno a Francesca Puglisi, neo senatrice e responsabile scuola del Partito Democratico, buongiorno. Buongiorno. Inizierei da Maria Stella Gelmini con le questioni politiche, appunto. Oggi andrete dal Presidente della Repubblica, Giorgio Napolitano, ma cosa vi aspettate? Cioè, cosa può fare ragionevolmente il Presidente della Repubblica? Perché non è che può intervenire su un processo. Guardi, noi abbiamo fiducia e ci siamo anche affidati al Presidente Napolitano, perché La scelta che abbiamo fatto ieri a valle di una riunione fiume, cioè di protestare davanti al Tribunale di Milano, non è stata una decisione assunta a cuor leggero. Sappiamo l'importanza di questo gesto, ma sono anche molte le violazioni di legge commesse da una parte della magistratura, in particolare dalla Procura di Napoli e anche da alcuni magistrati del Tribunale di Milano. A partire dal giudizio immediato disposto per Berlusconi, ancorché il Presidente avesse dato la disponibilità ad essere ascoltato dopo il 15 marzo in una qualsiasi giornata, alle reiterate visite fiscali richieste con il Presidente Berlusconi ospedalizzato al San Raffaele. Insomma, sono successe molte cose, al legittimo impedimento negato per gli avvocati Ghedini e Longo, nonostante ieri ci fosse la riunione di insediamento dei gruppi parlamentari del PDL per la Camera e per il Senato. Queste sono solo le ultime vicende di una storia che dura praticamente dal 94, da quando Berlusconi è sceso in campo, perché fino all'età di 55 anni non ha mai avuto alcun problema con la giustizia, anzi era stato insignito dell'onorificenza di Cavaliere del Lavoro. Tutto è successo dopo la sua partecipazione alla vita politica, e da anni ormai la vita politica del paese è scossa dal tentativo di una parte della magistratura. La vostra posizione la conosciamo. La vostra posizione la conosciamo. Però Napolitano che può fare? Questo non riesco a capire. Voglio, come dire, invadere il campo del Presidente, che ricordo è anche Presidente del CSM, quindi sicuramente ha un ruolo assolutamente autorevole di primo piano. Io credo che innanzitutto il segretario Alfano esporrà le nostre ragioni e confidiamo nel fatto che il Presidente Napolitano non sia insensibile rispetto ad una situazione che si sta facendo veramente pesante. Le soluzioni però non sta a me avanzarle, quanto credo che siano nello spazio decisionale del Presidente della Repubblica. Un messaggio al CSM, magari un messaggio al CSM? Ma guardi, lo valuterà Napolitano. Sicuramente è difficile. Noi ieri abbiamo fatto una riunione in cui abbiamo parlato di economia, di lavoro, di riforma del fisco. Presenteremo in Parlamento un disegno di legge per il rimborso dell'IMU 2012 e per l'abolizione dell'IMU sulla prima casa. Abbiamo parlato di disoccupazione giovanile e vorremmo solo occuparci di questi provvedimenti, dei provvedimenti che il Paese attende per battere la crisi e per agganciare crescita e sviluppo. Purtroppo, parallelamente, il nostro percorso politico è anche per certi versi deviato da una giustizia non giusta che troppe volte entra a gamba tesa nella vita politica. Però voglio dire che ieri la riunione è servita per discutere dei provvedimenti che noi presenteremo in Parlamento, perché accanto alla necessità di abolire il finanziamento pubblico dei partiti, di dimezzare il numero dei parlamentari, l'economia reale soffre, gli imprenditori sono stritolati dal fisco, dalla burocrazia e dalle banche, che hanno avuto molti soldi dalla Banca Centrale Europea ma non hanno dato nulla agli imprenditori, e quindi voglio dire che quella riunione è servita soprattutto a fare chiarezza, ad individuare la nostra agenda in Parlamento su queste tematiche. Poi parallelamente è chiaro che non lasceremo che Berlusconi venga condannato ingiustamente. L'uomo che più ha subito la pubblicazione illegittima delle intercettazioni viene condannato per la pubblicazione che il giornale del fratello ha fatto di un'intercettazione vera, mi riferisco al caso Unipol. Ecco, queste cose credo che non siano più tollerabili. Siamo abituati all'accanimento giudiziario, ma oggi veramente la misura è colma. Per chiudere con le domande politiche su due parole. La prima è l'espressione che ha usato Cicchitto, nazisti, per i medici che hanno fatto la visita fiscale a Berlusconi. Concorda? Guardi, il Presidente Berlusconi ieri con grande educazione, con grande pazienza, io non so se l'avrei avuta, ne avrei avuto altrettanto, si è sottoposto per due ore, ad una visita fiscale. Lo ha fatto con grande garbo e con grande educazione, però lascio giudicare a lei se una persona che non si trova a casa propria nelle mani di un medico di fiducia, ma si trova dentro un ospedale che mi pare qualificato, come il San Raffaele, messo nelle mani di molti medici, di personale ospedaliero, medico e paramedico, ci sia bisogno di accertare per due ore e le sue condizioni di salute. Francamente, nella storia, nazisti, credo, della giustizia, queste cose capitino veramente di rado. E quindi sono nazisti, non... no. Ma guardi, ha usato un'espressione forte, ma insomma sicuramente non sono, come dire, l'atteggiamento... C'è caduta Maria Stella Germini, adesso la recuperiamo così poi veniamo al tema. E prima di venire al tema però c'è anche Francesca Puglisi e il Partito Democratico. Voi avete, anche se questa, no, questa questione della giustizia è al centro naturalmente della scena politica in questo momento, voi avete altri problemi, mi sembra di capire, interni da una parte, ossia questo Renzi che sta premendo su Bersani in maniera piuttosto energica, e dall'altra parte quelli della formazione evidentemente di una maggioranza o di un governo di minoranza, insomma non si riesce a capire. In tutta franchezza, Puglisi, a me sembra molto difficile che si possa arrivare ad un accordo con Grillo. Oggi Delrio, come sappiamo, neoparlamentare vicino a Renzi, dice... sostanzialmente in un'intervista al Foglio dice sostanzialmente si tornerà a votare in ottobre, l'ipotesi più probabile è un governo o tecnico o con Monti o con uno dei ministri di Monti e poi si torna a votare ad ottobre. Lei che dice? Ma io dico che come diceva Maria Stella Gelmini, l'economia reale sta soffrendo, c'è una gran disoccupazione, c'è la cassa integrazione che sta scadendo per migliaia di persone, e sono persone che, proprio perché abbiamo avuto negli ultimi anni il Parlamento bloccato dai provvedimenti sulla giustizia per salvare Berlusconi, e questo certamente non per volontà nostra, hanno bisogno davvero di risposte immediate che stanno aspettando da troppo tempo. È per questo che Pierluigi Bersani, se riceverà l'incarico dal presidente Napolitano, rivolgerà proposte molto concrete per dare sollievo, dare immediate risposte al paese. Sì, però il tentativo, Puglisi, elette dovranno rispondere se vogliono davvero combattere la corruzione. Però parliamo, Puglisi, parliamo in termini di possibilità, di probabilità. Secondo me, alla fine, insomma, sarà ben difficile che questo avvenga, viste le parole di Grillo. No? Però vede, è importante davvero che chi è stato eletto in Parlamento dica in modo trasparente all'Italia cosa vuole fare, se vuole lavorare insieme nelle istituzioni democratiche su questi provvedimenti che le persone stanno aspettando con urgenza. Ho capito. Se il tentativo di Bersani fallirà, la palla ovviamente tornerà nelle mani del capo dello Stato, che deciderà, sentite le forze politiche, se rispedirci al voto o trovare una soluzione di transizione che accompagni il Parlamento al voto, dando prima queste risposte urgenti. Bene, quegli otto punti noi li offriamo all'Italia, li offriamo al capo dello Stato, vediamo chi decide di lavorare insieme a noi per risolvere problemi che, ripeto, da troppo tempo, perché a proposito delle cose che venivano dette prima, la democrazia è stata inquinata, purtroppo da troppo tempo i cittadini italiani aspettano risposte. Questa è la sua opinione, a proposito degli otto punti di Bersani, la devo dire perché una battuta ho letto stamattina su Twitter firmata da Fausto Panunzi, se non sbaglio, che dice: sono più difficili da ricordare dei sette nani. Non male, non male. Comunque, fuori di battuta, veniamo al tema di questa giornata, che lo dicevamo, è quanto le disuguaglianze si formano già a scuola, già in partenza. Nunzia Penelope, giornalista, autrice televisiva, scrive di economia per varie testate, qua convocata come autrice del libro Ricchi e Poveri, la prima inchiesta sulla diseguaglianza. Buongiorno Nunzia. Buongiorno. E in questo libro c'è un capitolo dedicato esattamente alla scuola, nel quale tra l'altro si cita, forse la cosa più interessante che ho trovato, tra le molte cose interessanti che trovate, viene citata una ricerca della Fondazione Agnelli, la quale rileva che la probabilità di essere in ritardo alla fine della scuola primaria da parte di un figlio di genitori con licenza media è 4 volte maggiore di quella del compagno di banco figlio di laureati. Quindi c'è un problema di parità di partenza, no? Sì, io devo dire che non mi occupo abitualmente di scuola e di studi, però facendo questa ricerca, questa indagine sulle differenze tra ricchi e poveri, ho trovato che un punto cruciale è esattamente questo. Infatti il capitolo citato si chiama "Non è una scuola per poveri". Sono rimasta stupita anche di un'altra cosa. Secondo molti studi sociologici importanti anche della stessa Banca d'Italia, il background familiare oggi in Italia pesa esattamente come negli anni 40, e questa è una cosa che mi ha lasciato secca, per cui abbiamo che tra i figli di genitori laureati meno del 10% sceglie l'istituto tecnico, mentre invece solo un terzo dei figli di operai sceglie il liceo, no? E lì si comincia. Questo ascensore sociale si ferma alla terza media, nel senso che tu quando arrivi in terza media, a seconda della scuola dove capiti, quello deciderà tutto il resto della tua vita. Secondo me è una cosa agghiacciante, perché poi anche lì si perpetua il blocco sociale, no? Un padre laureato avrà per il 70% dei casi un figlio ugualmente laureato, se invece è solo diplomato le possibilità per il figlio si dimezzano, per precipitare al 7% per i figli di padri con licenza elementare. Poi c'è un altro dato che mi ha molto colpito, e cioè che noi siamo il famoso popolo di poeti, navigatori, ma soprattutto siamo un popolo di analfabeti, e questi sono i dati di Tullio De Mauro e ancora della Banca d'Italia. In realtà il titolo di studio più diffuso oggi in Italia è la terza media. Noi siamo un paese che è uscito dalla guerra con metà della popolazione analfabeta, e dopo 60 anni abbiamo metà della popolazione con solo la terza media. Questo non mi sembra un grandissimo passo avanti, e forse su questo bisognerebbe riflettere quando parliamo di competitività, produttività e cose di questo genere. Ci chiedete via Twitter se è così diverso negli altri paesi. Allora, la quota di persone, sono sempre dati di ieri dell'Istat, tra i 25 e i 64 anni con almeno il diploma superiore, in Italia è al 56% contro una media europea del 73,4%. 9 in punto. Adesso verremo a qualche telefonata di ascoltatori che già arrivano. Intanto ripartirei da Francesca Puglisi del Partito Democratico, e poi veniamo a Maria Stella Gelmini. Insomma, il problema c'è, il problema appunto di un ascensore sociale che non funziona, e che non funziona già dalle scuole. Secondo lei che cosa andrebbe fatto, posto che non è stato fatto abbastanza evidentemente negli ultimi 20 anni, così ci mettiamo dentro tutti? Assolutamente, negli ultimi 20 anni, mettiamoci dentro tutti, sono state fatte soltanto riforme contraddittorie, e negli ultimi 5 anni anche un taglio massacrante alle risorse destinate all'istruzione. E da dove bisogna partire per dare risposte a questo vero e proprio allarme educativo che da tempo denunciamo? Fotografa perfettamente la ricerca che avete presentato, abbiamo un paese innanzitutto diviso in due, nord e sud del paese, e quindi crediamo che occorra investire per zone di educazione prioritaria, iniziare da quelle zone dove l'abbandono scolastico è più alto. Perché nel mezzogiorno d'Italia Mancano completamente le reti di asili nido, sono troppi i bambini e le bambine che restano fuori dalla scuola dell'infanzia e che quindi non vedono una scuola fino all'età dei 6 anni. Nel mezzogiorno d'Italia sono pochissime le classi a tempo pieno. È la Fondazione Agnelli sempre che dice che un investimento in educazione di qualità in tenerissima età è il migliore antidoto all'abbandono scolastico. Quindi e la soluzione di successo formativo futuro. Quindi la soluzione, Puglisi, secondo lei è maggiori investimenti pubblici in sostanza? Assolutamente sì, bisogna tornare ad investire nell'istruzione. Noi siamo fanalino di coda fra i paesi OCSE, la media dell'investimento rispetto al PIL è del 5,7%, noi investiamo oggi il 4,5% del PIL, un taglio drammatico di risorse fatto proprio alla scuola pubblica, al tempo scuola. È stato tagliato tempo scuola. L'Europa va in tutt'altra direzione perché i tempi distesi, lo dimostrano tutti i dati, migliorano gli apprendimenti. E ancora un taglio drammatico al diritto allo studio. Come può oggi un capace meritevole privo di mezzi accedere ai più alti gradi di istruzione, come dice la nostra Costituzione, se non può contare su quella borsa di studio di cui ha diritto, perché è stato tagliato abbondantemente appunto il diritto allo studio, oltre il 50% dei tagli sul diritto allo studio per gli studenti capaci e meritevoli? Ecco, sono le grandi iniquità, le grandi ingiustizie che si sono senz'altro aggravate negli ultimi 5 anni. Gelmini, lei che dice e cosa risponde naturalmente? Perché ma poi... guardi, a me sembra, con tutto rispetto, il solito ragionamento trito e ritrito della sinistra, che quando non ha proposte da avanzare si appella alla mancanza di soldi. Io dico alla collega Puglisi che non è che lei venga dalla luna, era presente in Parlamento con il governo Monti, un governo fatto di professori, eppure di investimenti non ne abbiamo visto, non ne abbiamo visti nella scuola, nella sanità, per il motivo molto semplice che i soldi non ci sono. Quindi se noi continuiamo a raccontare queste balle agli italiani e non ci assumiamo la responsabilità di cambiare le regole, di avere il coraggio di entrare nella scuola e guardare cosa funziona e cosa non funziona. Ogni volta rinviamo le riforme, rinviamo i cambiamenti, a quando ci saranno più soldi, noi avremo un numero maggiore di disoccupati giovani, avremo un numero maggiore di studenti che non lavorano e non studiano, cioè i problemi andranno acuendosi. Quindi io rifiuto categoricamente il ragionamento delle risorse, perché è un ragionamento di comodo. L'Italia in questi anni di soldi nella scuola ne ha investiti, il problema è che li ha investiti male, e la scuola è servita alla politica della sinistra per fare consenso e prebende. Se la scuola fosse stata utilizzata non come un ammortizzatore sociale, ma come un luogo dove si misurava la formazione, la qualità dell'insegnamento, in cui i sindacati fossero entrati con meno peso, oggi non saremmo in queste condizioni. E parlare solo dei tagli all'organico come il problema della scuola è francamente fuorviante, perché il diritto allo studio nel nostro paese non è mai esistito, per il semplice motivo che le risorse sono sempre servite per aumentare il numero dei professori, per aumentare la pianta organica, per aumentare le cattedre. E un vero diritto allo studio non c'è mai stato, perché le borse di studio sono di 2, 3, 4 mila euro, e se lei chiede a una famiglia cosa costa far studiare un figlio per tutto l'anno, costa più di 3 o 4 mila euro. Quindi io credo che dobbiamo essere meno qualunquisti e un po' più sinceri, e quindi fare delle valutazioni dicendo, per esempio, che il fatto che gli insegnanti non abbiano una carriera, che vengano pagati tutti allo stesso modo, indipendentemente che lavorino o non lavorino, che producano risultati o non li producano, questo è il primo errore. Non c'è meritocrazia se non c'è una vera selezione degli insegnanti e se non abbiamo la capacità di premiare i migliori e di licenziare gli insegnanti che non lavorano. Questo è il primo punto. Poi ci manca un sistema di valutazione, perché non valutiamo mai dove vanno a finire le risorse. E poi abbiamo allontanato la scuola dal lavoro. Oggi abbiamo meno laureati sì, della media OCSE. Gelmini, ma... Gelmini, la interrompo perché lei sta parlando... quando si fanno questi ragionamenti sempre perché fa troppo comodo dire aspettiamo che arrivino più soldi. Ma dove sono i soldi Gelmini, non la interrompo perché sta facendo quel ragionamento. La interrompo perché la voglio riportare su quello, sul tema, la questione del livellare... Attenzione, mi scusi. La questione del livellare il livello di partenza per gli studenti, cioè qua stiamo parlando di, lei mi sta giustamente facendo un ragionamento che è la sua posizione sulla scuola in genere, io sto dicendo che vorrei trovare il punto su qual è la soluzione per portare allo stesso livello di partenza agli studenti, per far sì che un figlio di un operaio non finisca a fare l'operaio o il disoccupato, ma possa permettersi, pur in carenza di risorse personali e familiari, un percorso scolastico e poi universitario che gli consenta di ascendere a livello sociale, dal punto di vista, quantomeno allora, a livello economico. Questo è il punto. Guardi, ecco. Certamente c'è da combattere la dispersione scolastica, c'è da aiutare le famiglie. Però vede, l'investimento per sostenere le famiglie parte per esempio da una riforma fiscale. Se ci fosse in Italia il quoziente familiare, per cui ci fossero detrazioni e deduzioni per le famiglie che devono far studiare i figli, e se a parità di reddito le famiglie che avessero più figli potessero pagare meno tasse, questo sarebbe un vero aiuto alle famiglie. Oggi è chiaro che la crisi pesa su ogni famiglia, sui cittadini italiani, e quindi far studiare i figli è difficile, ma non è un qualcosa che si può imputare esclusivamente all'investimento nella scuola. Dobbiamo semmai ridurre le tasse, questo è un punto, potenziare il diritto allo studio, ma il diritto allo studio non verrà mai potenziato finché ci preoccupiamo solo, come chiedono i sindacati, di aumentare il numero degli insegnanti, il numero del personale tecnico amministrativo, senza mai fare investimenti in qualità. Qui siamo di fronte a delle scelte, non abbiamo più i soldi da investire ovunque, dobbiamo decidere se le risorse servono per il diritto allo studio, servono per la qualità o semplicemente se dobbiamo assumere tutti i precari del mondo, perché questa è la posizione della sinistra, no? Sono state promesse i posti di lavoro che poi sono stati posti di attesa nelle graduatorie e adesso si chiedono le stabilizzazioni. Io sono contraria ad ogni forma di stabilizzazione, perché nella scuola si entra per concorso, non in base alla stabilizzazione che decide il sindacato. Sono queste le scelte di fondo. O andiamo sulle borse di studio, andiamo sulla qualità, magari deroghiamo al patto di stabilità per consentire ai comuni di investire nell'edilizia scolastica, oppure abbiamo una posizione falsamente egualitaria del posto fisso, del chiedere agli insegnanti di lavorare poco perché tanto vengono poi pagati poco, e questa è la logica che ha portato oggi la scuola alle difficoltà in cui versa. Le riforme che sono state fatte hanno semplicemente cercato di avvicinare la scuola al mondo del lavoro. Il rilancio dell'istruzione tecnica e dell'istruzione tecnica superiore è un pilastro dal quale non si dovrebbe tornare indietro, perché la scuola non deve fornire un pezzo di carta, deve favorire l'ingresso nel mondo del lavoro. E allora dare ai giovani le competenze, i profili tecnici adeguati per poi entrare nel mondo del lavoro preparati, questa è la vera sfida. Il punto, non il pezzo di carta, il punto l'abbiamo la capito. Il punto l'abbiamo capito, voglio sentire qualche ascoltatore. Giovanni ci chiama da Bologna, buongiorno. Buongiorno. Prego. È certo che ho ascoltato sia le esponenze del centrodestra che del centrosinistra. In comune c'è questo obiettivo di rilanciare non solo la scuola ma le possibilità a tutti di poter fare questa scalata sociale. Io la voglio banalizzare in questo modo, cioè entrambe hanno posto l'accento su alcune tematiche, quelle della possibilità di avere più risorse con quella della qualità. Io credo che qui il problema sia un pochettino a monte, cioè questa nostra società, questa nostra nazione, che cosa pensa che sia la pietra, l'angolare sulla quale costruire il futuro di questa nazione. Su questo credo che nessuno abbia il dubbio che sia la scuola. E allora noi, se è vero che c'è un problema di qualità e se c'è un problema anche di risorse, noi dobbiamo fare in modo che questo grande comparto della spesa pubblica, della pubblica amministrazione, diventi così più snello, più efficiente per liberare quelle risorse e per fare anche quegli studi di benchmark che si possono fare in tutte le aziende, per vedere dove, rispetto anche ad altre realtà europee e internazionali, il comparto scuola diverge da situazioni dove invece, magari come si sentiva dire prima, il livello di istruzione di scuola media secondaria è al 75-80%. Diciamo che è un po' come dire che le nozze non si fanno con i fichi secchi. Sì. Se c'è un'assunzione di responsabilità, di capire quali sono le azioni principali su cui mettere mano per poter rilanciare tutto il nostro paese, guardate che alla fine tutto gravita attorno a questo, perché un paese cresce, si sviluppa, pensiamo a quello che è successo Giovanni, sì. Ha detto abbastanza, abbiamo capito, sentiamo la viabilità. 9 in punto. Bruno ci chiama da Sondrio, buongiorno. Buongiorno Save. Mi riallaccio anche a quello che diceva l'ascoltatore precedente. A me sembra di capire che non è che ci sia un problema evidenziato dal centro-sinistra e uno dal centro-destra, uno è vero, l'altro è falso. Sono entrambi veri. Cioè, si sa che nella scuola c'è una carenza di risorse, come si sa che è stato creato negli anni un sistema. È stata trattata come un ammortizzatore sociale, mi pare lo dicessero anche Rizzo e Gian Antonio Stella nella Deriva, nell'altro libro, quello che è uscito dopo la casta. Perciò è chiaro che il sistema scolastico andrà riformato, va riformato, altrimenti succederanno, si riconfermeranno negli anni, gli alieni, quelli che sono le statistiche che hanno pubblicato anche nel BES 2013 ieri, l'Istat e il CNEL, cioè un solo dato e poi io chiudo: la quota di persone tra i 25 e i 64 anni con almeno diploma superiore in Italia è del 56%, nella media Europa 27 del 73,4%, perciò noi siamo pesantemente sotto. Sì. Perciò ci vorranno anni per risolvere questo problema, però io quello che chiedo è che trovino una sintesi, perché mi riallaccio alla telefonata di Angelo dell'altro giorno. Questi qui stanno giocando con le situazioni e non capiscono che il tempo è finito, ma non è finito l'anno scorso a causa della crisi, è finito probabilmente già 10 anni fa, perché non è possibile continuare a sentire per decenni gli stessi problemi, sapere e risentire le stesse visioni e non vedere mai una sintesi. Cioè, questo è insoddisfacente. Chiarissimo. Io ritorno, prima di far chiudere poi a Francesca Puglisi del Partito Democratico, è stata chiamata duramente in causa da Maria Stella Gelmini, ritorno però a Nunzia Penelope, proprio per sottolineare questo. Insomma, io ho l'impressione che su tutto il tema, appunto, della diseguaglianza che tratti nel tuo libro, sia effettivamente questo lo snodo centrale. Vedo anche dei tweet che ci arrivano dagli ascoltatori, c'è chi ci dice: volere e potere, io l'ho fatto, sono figlio di un operaio, sono riuscito a laurearmi e tutto quanto, però insomma oggettivamente sono casi isolati. Mi sembra che nel tuo libro tu faccia abbastanza in realtà riferimento alla questione delle risorse proprio. Sì, guarda, io ho ascoltato con attenzione le varie cose, comprese le telefonate. Allora, voglio dire una cosa molto semplice: il nodo di tutto è la scuola pubblica, si chiama pubblica perché vive di risorse pubbliche. Alla nostra scuola pubblica sono stati tagliati tipo, mi pare, 25-26 miliardi negli ultimi anni. Tutto il resto del mondo investe sulla formazione, persino paesi come la Gran Bretagna, dove c'è una selezione di classe, ricchi da una parte e poveri dall'altra, no? Le grandi università costosissime. La Gran Bretagna ha stanziato 300 milioni di sterline per permettere anche ai ragazzi non abbienti di frequentare le migliori università, perché si sono resi conto anche loro che se i poveri non hanno i soldi per andare a scuola, un paese può soltanto andare sempre più indietro. E poi quindi innanzitutto le risorse, perché oggi la scuola si chiama pubblica ma in realtà è privata, nel senso che se tu, un genitore, non hai i soldi per pagare dall'asilo nido, prima si richiamava gli asili nido, bisognerebbe sapere che in Italia non ci sono, e non solo al sud. gli asili nido costano, e così costano le scuole superiori e così costa infinitamente l'università. Qualche giorno fa è uscito un dato che parlava di una fuga dei ragazzi dall'università. C'è stato un crollo di, mi pare, 50-60 mila iscrizioni. Beh, ti credo, quanti si possono permettere oggi di pagare le tasse universitarie, i libri e tutto quello che costa? E poi un'ultima cosa, oggi i giornali sono pieni di un dato altrettanto inquietante. Anche se tu oggi ti laurei in Italia, poi esci e sei disoccupato o precario. Io ho girato per fare questo libro, ho anche girato l'Italia e mi sono tolta anche lo sfizio di chiedere alla gente che lavoro faceva e quanto guadagnava. Beh, voi non avete idea di quanti laureati si trovano dietro le casse dei supermercati. Allora, se un paese spiega ai ragazzi che devono fare l'università per fare il salto di classe e poi però quando hanno fatto l'università si ritrovano a guadagnare 800 euro al mese come precario, anche quello, mercato, cioè, anche quello incide, dovrebbero, no? anche quello incide. In chiusura, Francesca Puglisi, 30 secondi su 30 secondi. Senz'altro i mali profondi della scuola italiana non si risolvono con i tagli ma con gli investimenti, quelli che Maria Stella Germini chiama gli ammortizzatori sociali inventati dalla sinistra per elargire posti di lavoro. Ossia, faccio un esempio, le compresenze nella scuola primaria che l'ex ministro Gelmini ha tagliato, l'eliminazione di quelle ore di compresenza degli insegnanti in cui maestri e maestre dividevano i bambini e le bambine in piccoli gruppi di lavoro proprio per curare le debolezze, permettere a tutti di rimettersi agli stessi nastri di partenza nella vita, hanno causato, lo dice una recentissima indagine, un crollo verticale anche nella scuola primaria, che era l'eccellenza che tutta Europa ci invidiava. Hanno causato un crollo verticale degli apprendimenti in italiano, matematica, proprio quelle materie fondamentali poi per proseguire con successo il proprio percorso. Grazie, scolastico. grazie Francesca Puglisi, chiudiamo qua. Grazie a Francesca Puglisi, Nunzia Penelope, autrice di Ricchi e Poveri, la prima inchiesta sulla diseguaglianza, Maria Stella Gelmini, avete sentito le posizioni in capo, potete farvi un'idea. Grazie Gianmarco Ferronato in regia, Franco Piantanide in assistenza, Alessandro Marco Tulli in redazione, le ragazze del Centralino, ci sentiamo domani. Però a me mi sembra che questi partiti qua, tutti e tre, stanno giocando con le figurine. Te ne do due, me ne dai una, te ne do tre, te ne do due. Che la piantano e dire, lei non siamo qui mica a vendere le noccioline. Voi siete lì per noi, non per voi. Ma fate qualcosa in fretta, perché l'Italia sta morendo. E io sono uno di quelli. Radio 24. La passione si sente.